perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Due di Denari. E ancora solo il Taxman, perché oramai Peter Bescapè dall'altra parte del vetro ha deciso di battezzarmi così, cioè Mauro Meazza che vi parla. Deborah ancora per oggi non c'è, ma tornerà domani più bella e più grintosa che pria, come si direbbe il poeta. Oggi vi vogliamo parlare di lavorare all'estero, ma anche lavorare un po' all'estero e poi tornare in Italia. Non vogliamo fare concorrenza a Sergio Nava, che come sapete tutti i sabati alle 13.30 in Generazione Mobile vi parla dei giovani che vanno a cercare lavoro all'estero, che lavorano all'estero, ma vi vogliamo parlare di un altro tipo di fenomeno, perché oltre al fatto di voler andare, di volersi recare all'estero per un periodo, magari per un periodo limitato, per completare gli studi, per fare una prima esperienza lavorativa, ebbene poi si pone anche la questione di tornare indietro. Ci sono anche, come sapete, delle norme che incentivano il cosiddetto rientro degli espatriati o espat, come qualche volta si dice. Ebbene, tutto bene, tutto molto globale, tutto molto carino, se non fosse che ci sono degli obblighi precisi, ad esempio degli obblighi fiscali, degli obblighi previdenziali. E poi che succederà allora del periodo che ho passato all'estero a lavorare, se poi decido di rientrare in Italia, o se magari ho un lavoro che mi porta spesso a dei periodi fuori dall'Italia, ma poi a dover rientrare. Sono problemi che via via stanno moltiplicandosi, perché il mondo diventa sempre più mobile, appunto, il lavoro diventa spesso più mobile. E allora oggi ne parliamo con due esperti, che sono Massimo Braghin, che è esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e che ci ragguaglierà sulle questioni previdenziali, e con Paolo Lucarini, che è dottore commercialista, partner di PwC TLS, avvocati e commercialisti, e quindi per la parte, per così dire, fiscale della tassazione, come ci regoliamo con il fisco. Prima di cominciare con il nostro tema della giornata, però vorrei coinvolgervi anche in un'altra iniziativa, perché possiamo dare 10 biglietti per partecipare il 16 novembre prossimo a Gamma Forum. Gamma Forum è il più importante evento nazionale sulle tematiche legate all'imprenditoria femminile e all'imprenditoria giovanile. Si svolgerà qui il 16 di novembre, cioè qui vuol dire nella sede del Sole 24 Ore a Milano, in via Monte Rosa 91, è la nona edizione e come sempre sarà dedicata appunto alla creatività innovativa delle donne, dei giovani, nella imprenditorialità appunto delle giovani generazioni e l'imprenditorialità al femminile. Vi interessa partecipare? Noi abbiamo 10 biglietti. Allora, se ci scrivete via SMS o WhatsApp il vostro pensiero, la misura che vorreste in favore dei giovani o delle donne imprenditrici, o l'ostacolo che avete trovato nell'avviare la vostra attività, se siete appunto di queste categorie, allora scriveteci o per SMS o per WhatsApp. Sapete che il numero è sempre quello: 349-238-6666. Questo stesso numero naturalmente anche per le vostre domande di oggi, sempre per SMS e WhatsApp, ma se volete intervenire in diretta e chiederci, farci domande, raccontarci della vostra esperienza di lavoro temporaneo all'estero e di rientro, avete trovato difficoltà, vi siete trovati a mal partito poi con i versamenti previdenziali o con il fisco, ebbene 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Volete scriverci una mail? Potete farlo. 2didenari@radio24.it. E allora a questo punto, Peter, rimettiamo Taxman e partiamo con il tema della giornata. E ti ho fatto un brutto scherzo, perché tu avevi un'altra cosa, un'altra canzone, ma io mi sono affezionato. Credo che a questo punto la userò anche come suoneria del telefono. E allora sentiamo se ci sono i nostri ospiti. Massimo Braghin, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Mauro, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno anche a Paolo Lucarini. Buongiorno, buongiorno Mauro, buongiorno. Allora, innanzitutto facciamo un pochino di chiarezza, non so se cominciare dalla parte della previdenza o la parte del fisco, però di solito il fisco è, come dire, più invadente, e più... allora forse è meglio se cominciamo dalle questioni, come dire, fiscali. Come devo regolarmi, dottor Lucarini, se vado all'estero e conto di starci, che so, 2, 3, 4 anni, però non per sempre, insomma, non ho l'idea di rimanerci per sempre, e vado per lavoro, quindi mi ci manda un'azienda oppure decido di andare io per avviare io un'attività. Quali sono le regole di base? Certo, certo Mauro. Allora, sicuramente un primo tema da andare a chiarire è sicuramente quello della residenza fiscale nell'anno in cui si parte, negli anni successivi, no? Perché la residenza fiscale può determinare una vera differenza nella tassazione in Italia. E da qui evidenziamo subito un classico errore che si fa quando si parte, che è quello di pensare che se uno è non residente non è soggetto in assoluto a tassazione in Italia, e se invece è residente è soggetto a tassazione sempre. Ecco, bisogna innanzitutto chiarire che anche i soggetti non residenti in Italia potrebbero essere soggetti a tassazione in Italia, però solamente sui redditi prodotti in Italia. Ad esempio? Quindi facciamo un esempio pratico, esatto. Allora, nell'ipotesi in cui ci sia un lavoratore che ha un immobile in Italia, come spesso accade, no? Tutti noi abbiamo un immobile, poi ci mandano all'estero a lavorare in Inghilterra, cosa succede qui? Se sono un residente e continuo a essere residente in Italia durante il mio periodo di permanenza all'estero, comunque sarò soggetto a tassazione sia sull'immobile, che è prodotto in Italia perché è basato in Italia, sia sul lavoro dipendente che svolgo all'estero. Se sono non residente invece, sarò soggetto a tassazione solo sull'immobile, perché l'immobile è evidentemente in Italia e quindi secondo la normativa italiana viene considerato, come dire, prodotto in Italia. Quindi ecco, tutta la parte del reddito di lavoro dipendente viene esentata. Allora, la fermo un attimo perché questo è il primo punto, secondo me, determinante da chiarire, cioè quello della cosiddetta iscrizione all'AIRE, cioè l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, è molto importante, quindi se si supera una certa quantità di giorni in un anno, sono 183, per cui si ha, come dire... si può chiedere questo spostamento di residenza, però attenzione perché potremmo avere comunque dei redditi percepiti in Italia che restano soggetti alla tassazione italiana, mentre quelli percepiti all'estero restano soggetti alla tassazione all'estero. Chiamo in causa subito Massimo Braghin per capire, va bene, mi hanno mandato all'estero e ci sono rimasto per diversi anni. Ma come mi devo regolare ai fini della pensione, anche se magari sono molto giovane, però può essere interessante capire se questi periodi poi saranno utili ai fini del mio pensionamento in Italia. Braghin. Sì, eccomi qua. Allora, guarda Mauro, intanto il distacco all'estero, diciamo così, lo spostamento all'estero può avere varie forme. Tu sai benissimo, ci può essere una trasferta che può essere temporanea, quindi un mutamento temporaneo del luogo di lavoro con una previsione certa di rientro, oppure un distacco che è un mutamento sul luogo del lavoro con una sospensione temporanea delle norme contrattuali e di leggi del contratto originario di assunzione. Quindi c'è una stipula di un contratto estero che regola il rapporto di distacco. Oppure ci può essere ancora di più il trasferimento, quindi un mutamento definitivo del luogo di lavoro con la stipula di un contratto estero. Allora, per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, logicamente che è quello a cui ci tiene di più il lavoratore che si è recato a lavorare in trasferta, diciamo che c'è una normativa in continua evoluzione, la quale tende a tutelare gli imponibili previdenziali. Infatti ci sono delle sentenze anche recenti che tengono banco e che hanno stabilito che per i dipendenti italiani distaccati presso paesi convenzionati i contributi previdenziali italiani si debbano calcolare anziché sulle retribuzioni convenzionali, quindi che rappresentano un calcolo solo ed esclusivamente per quanto riguarda le imposte, sulla base di retribuzioni effettive. Qua è una sentenza dell'anno scorso, una sentenza di Cassazione dell'anno scorso. Questo è venuto fuori anche recentemente per non penalizzare i nostri lavoratori che si recano in stati europei, ex est europeo diciamo, in cui là tendenzialmente le retribuzioni sono molto più basse. Quindi c'è una tutela previdenziale che viene data a questi lavoratori affinché non siano discriminati sul luogo di lavoro, ma soprattutto non abbiano poi una discriminazione a livello di a livello pensionistico. Quindi parità di trattamento, che è uno dei principi basilari su cui si basa anche il nostro sistema previdenziale. La interrompo, Braghin, solo per chiarire un punto. Lei ha fatto cenno appunto alle retribuzioni convenzionali, sono retribuzioni che vengono stabilite una volta all'anno, venivano stabilite una volta all'anno e che servono per calcolare appunto l'ammontare dei contributi se uno lavora all'estero, una sorta di tabella, come dire, un po' se avete presente le tabelle ACI che servono per valutare il valore fiscale delle autovetture. Ecco, è più o meno la stessa cosa, insomma funziona per le retribuzioni, però questa sentenza di Cassazione a cui lei faceva cenno evita diciamo che ci siano delle sperequazioni per chi va a lavorare, che so, in un paese dell'est europeo rispetto a chi magari si reca in Germania o in Francia, dove la retribuzione potrebbe essere più alta. Ho compreso bene? Certo, si tende a parificare l'imponibile previdenziale proprio per non averne poi alla fine. C'è proprio un principio di favor laboris, sì, che viene introdotto, insomma, ecco, quindi c'è anche proprio stata una modifica proprio nel TUIR, che il dottor Lucarini mi potrà confermare, è stato introdotto proprio il comma 8 bis dell'articolo 51 del TUIR, quindi piena equiparazione, sì, delle basi imponibili fiscali e previdenziali per quanto riguarda poi tutto il lavoro dipendente prestato poi all'estero. Allora il TUIR, lo diciamo per i non appassionati della materia, il testo unico delle imposte sui redditi. Testo unico imposte sui redditi. Ed certo, è diciamo uno dei testi di legge che disciplinano molti degli aspetti del nostro rapporto con il fisco. Se capisco bene, Braghin, in estrema sintesi, nel caso ricevessi un'offerta per andare a lavorare all'estero per qualche anno, quindi non devo temere che questo si traduca poi in una riduzione, in una diminuzione della mia vita contributiva ai fini della pensione, ai fini INPS. Ma intanto bisogna capire dove mi mandano all'estero, perché se rimango nell'Unione Europea i problemi non ci sono, perché abbiamo le convenzioni bilaterali e poi ci sono comunque tutti quegli stati che hanno sottoscritto poi, sono convenzionati, quindi paesi extracomunitari convenzionati, su quello di solito i problemi non ci sono. Il problema ci sono sui paesi quelli non convenzionati, che in quanto non ci sono dubbi sull'applicabilità delle retribuzioni convenzionali, quindi UE e paesi convenzionati non c'è problema. Dall'altra parte bisogna capire dove si va a parare, perché non è detto che ci sia la convenzione, quindi la contribuzione versata sul paese diciamo destinatario, dove sono stato distaccato oppure trasferito definitivamente, non riesce a dialogare poi con quello che è la contribuzione versata in Italia, quindi potrei trovarmi anche dei problemi grossi quando sarà ora di andare in pensione. Che tra l'altro adesso c'è stata anche un'ulteriore novità proprio recentissima qua di fine ottobre per quanto riguarda addirittura l'ape social. È un anticipo diverso, pensionistico, però, sì, riservato. L'anticipo pensionistico, esatto, sì, che sembrava, no, c'era una circolare numero 100 dell'INPS che aveva escluso tutti i lavoratori esteri in quanto esclusi a difetto del requisito contributivo. Adesso invece, in base alle domande che sono state presentate e considerato il limitato ammontare delle risorse, e quindi ci sono state anche poche domande fatte, li hanno proprio reinseriti, quindi la platea dei destinatari è inferiore a quella prevista e quindi anche chi ha lavorato all'estero potrà far valere la contribuzione 30-35 anni per, se vuol fare domanda, dell'ape social. Questa è una buona notizia, ci sono voluti tre messaggi dell'INPS, però ci siamo arrivati. Insomma, piano piano, anche perché come sapete, ne approfitto visto che mi avete dato questo spunto dell'ape, cioè l'anticipo pensionistico, allora spesso ci capita di parlarne qui a Due di Denari. L'ape social è quella riservata ad alcune categorie di lavoratori particolarmente, per dir così, svantaggiati, e questa è operante nel senso che l'INPS ha già dato le istruzioni, ne ha date a più riprese e ricevuto le domande. Invece è lì che aspetta l'APE volontaria, quella, diciamo così, che il lavoratore può far partire avendo certi requisiti, presentando la domanda all'INPS, perché ancora siamo in attesa. Abbiamo tutte le parti normative, ma ci mancano gli accordi con banche e assicurazioni per capire a quanto viene erogato questo prestito e quanto sarà la polizza che bisognerà stipulare, appunto, per garantire che uno così passi a miglior vita prima di aver restituito tutto il prestito, nel senso che magari, visto che siamo in argomento, che so, decide di scappare all'estero in un paese esotico e quindi in questo senso passare a miglior vita. Ci sono già diverse domande. Allora vorrei sentire subito Donata da Milano, che mi sembra un caso di quelli proprio classici per il dottor Lucarini. Donata, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. La mia domanda era questa. Mia figlia lavora all'estero da circa 6 mesi e continuerà a farlo per circa, almeno per il momento, sono 2 anni. Voleva acquistare una casa qua in Italia. Godrà delle agevolazioni sulla prima casa? Sentiamo subito il dottor Lucarini come ci può consigliare. Dottor Lucarini. Allora. Certo, certo. Quindi diciamo questo, che innanzitutto, come dicevo prima, bisogna capire se la persona, se in questo caso sua figlia, rimarrà o meno residente fiscale in Italia. Però devo dire che in tema di agevolazioni prima casa, la risposta è sì. Quindi, ossia che sia residente o non residente, comunque potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa per l'acquisto. Attenzione che però nel caso in cui diventi non residente in Italia, come immagino diventerà col passare del tempo, sì. E ovviamente si può mantenere questa agevolazione purché però in Italia non ci sia altro immobile adibito ad abitazione principale, quindi su tutto il territorio italiano. Quindi è chiaro che uno ne può beneficiare anche se pur sia residente all'estero, ma in Italia non deve avere altro immobile con la medesima agevolazione adibito ad abitazione principale. Lucarini, c'è un l'ascoltatore che ci scrive via SMS al 349-238-6666 e ci pone questa situazione. Iscritto all'AIRE, possiede un alloggio vuoto, non affittato a nessuno in Italia. Chiede se deve pagare l'IRPEF su questo immobile e o l'IMU su questo immobile, cioè sia l'imposta locale che quella appunto sul reddito. Com'è la situazione di questo ascoltatore? Allora, anche qui ci troviamo di fronte a un ascoltatore che si è iscritto giustamente all'AIRE, quindi diamo e mi sembra di capire che non abbia principali legami, particolari legami in Italia, che lo leghino all'Italia, quindi presumendo che sia un soggetto non residente, quindi ormai trasferito, che ha semplicemente un'abitazione. Ecco, nel caso dell'IMU e la TASI, ovviamente se fosse stato residente ovviamente non ci sarebbe stato. E nell'ipotesi in cui invece diventi non residente, ovviamente ci sarà sarà applicabile l'IMU anche come al suo se fosse caso, la prima casa. Perché, perché lì sostanzialmente andiamo a ricadere in certo. un tipo di casa che non è la sua prima casa, che potrebbe non essere certo. la sua prima casa, quantomeno. Certo, anche quindi, sulla prima casa, esattamente. Come nella situazione dell'ascoltatrice che ci ha chiamato prima. Non so se facciamo a tempo a sentire Moreno. Moreno, buongiorno, lei ha una vicenda di previdenziale invece. Sì, buongiorno. Buongiorno Moreno, ci spieghi cosa le interessava sapere. Io ho lavorato come amministratore 15 anni in Spagna. Sì. Non mi sono mai iscritto all'AIRE, ho versato i miei contributi nella nazione, nello stato dove lavoravo. E ho pagato. Dovrebbe abbassare la radio, Moreno. Dovrebbe abbassare la radio. Sì, mi sente meglio adesso? Sì, grazie. Anche gli ascoltatori, prego. Non ho mai pagato, non mi sono mai iscritto all'AIRE. Sì. Ho pagato le imposte in Spagna e naturalmente ho fatto la dichiarazione dei redditi anche in Italia, sì. pagando quello che era dovuto. Sì. Dalla legislazione spagnola credo che dopo 15 anni hai diritto alla pensione una volta raggiunta l'età pensionistica, che è 67 anni. Sì. Però per quanto riguarda la contribuzione che io ho versato in Spagna, si può ricongiungere con l'Italia e avere la possibilità di ricevere una pensione unica in Italia? Perché lei praticamente avrebbe diritto, scusi se la tengo ancora un attimo in linea, avrebbe diritto ad avere una pensione già in Spagna avendo raggiunto un minimo contributivo, è così? Sì, esatto. Però sì, ha anche ovviamente dei versamenti in Italia, quindi sarebbe più interessato a ricongiungere le due posizioni in modo io da... Continuo a sviluppare il lavoro in Italia come libero professionista e sì, quindi quando raggiungerò l'età pensionistica in Italia vorrei sapere se posso ricongiungere con quelli spagnoli. Allora, adesso facciamo rispondere senz'altro Massimo Braghin, però poiché incombono su di noi le notizie dei mercati, chiedo sia al gentilissimo Moreno che ci ha chiamato da Bologna, al dottor Braghin, al dottor Lucarini, di pazientare qualche istante perché ascoltiamo come stanno andando i mercati, come sempre a quest'ora a due dinari, quando vengono le 11.30 noi diamo la linea ai mercati e ritorniamo tra poco proprio con la situazione di questo ascoltatore che peraltro, come avete capito, lavora come libero professionista, quindi come lavoratore autonomo e non come dipendente, quindi un caso ulteriore. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. E allora il posto dove vado? Vado all'estero, lavoro un po' all'estero, però poi torno in Italia, una situazione che diventa via via più frequente, non solo per i giovani, non solo per chi lavora come dipendente, ma anche chi decide di avviare un'attività autonoma. I numeri per porci delle domande, per intervenire in diretta sono quelli abituali, se volete intervenire 800 24 00 24, e se volete scriverci sms o whatsapp 349 238 6666. Vi ricordo poi che a questo stesso numero 349 238 6666 potete anche segnalarci le vostre storie di imprenditoria femminile o giovanile. Abbiamo 10 biglietti per la manifestazione che si terrà qui da Gamma Donna il 16 di novembre qui alla sede milanese del Sole 24 Ore. Raccontateci la vostra storia, la vostra richiesta, la più a nostro insindacabile giudizio, quelle che ci convinceranno di più verranno premiate con questi 10 biglietti. Eravamo rimasti con una domanda in sospeso molto interessante, perché la possibilità di ricongiungere periodi contributivi versati all'estero e in Italia. Allora chiamo subito in causa il dottor Massimo Braghin della Fondazione Studi e Consulenti del Lavoro. Braghin, che cosa possiamo consigliare a questo ascoltatore ha un problema che è molto diffuso, insomma, ecco, qua siamo proprio nell'ambito dell'istituto della totalizzazione dei contributi versati. Sì. L'ascoltatore aveva una contribuzione, ha detto, di 15 anni versata in Spagna. Come funziona la totalizzazione dei contributi versati? In pratica, quando ci sono i periodi assicurati di attività che può essere sia subordinata che autonoma, e versano la contribuzione in uno Stato appartenente all'Unione Europea, questi contributi si aggiungono a quelli maturati in un altro Stato membro, in una misura che deve essere necessaria per la maturazione della pensione. Sì. Attenzione però che se abbiamo una sovrapposizione di contributi se ne conta uno solo per l'anzianità, quindi se io ho maturato contributi in Spagna e in Italia nello stesso periodo si conta una volta sola, non ci deve essere mai la sovrapposizione. E quindi io valgono... No, dicevo Braghino, o valgono i contributi versati in Spagna o valgono quelli versati in Italia. Insomma, non si può dire che uno ha versato il doppio in qualche modo, vale solo uno. Ma anche qua in Italia funziona così, quando ad esempio c'è il riscatto del periodo di militare oppure quello della laurea, riscatto di laurea, così funziona così. Quindi se durante il periodo universitario già lavoravo, contano, non posso fare il riscatto del periodo di laurea perché ho già la copertura previdenziale. Certo. Ecco. Questa totalizzazione come funziona? Consente al lavoratore di cumulare per i diversi periodi di lavoro per i quali ha versato i contributi una maturazione al diritto alla pensione. Attenzione che questi contributi che sono stati versati in ciascuno Stato non sono né trasferibili e nemmeno rimborsabili, ma saranno solo utili al calcolo della prestazione che si farà carico ogni Stato dove si è svolto il lavoro. Quindi non dobbiamo chiedere rimborsi da una parte o dall'altra, ma ogni Stato si farà carico di questo. Facciamo un esempio pratico. Se io ho lavorato in Italia per dire 15 anni e ho lavorato in Spagna, ecco, sì, come il nostro ascoltatore, altri 15 anni, ecco, senza totalizzazione è chiaro che il lavoratore non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia italiana, perché non, certo, raggiungerebbe il minimo di 20 anni. Invece, facendo così, quindi al compimento dell'età pensionale, dovrà pagare la pensione di vecchiaia conteggiando ai fini del diritto anche i periodi esteri che risulteranno maturati, quindi 15 più 15 fa 30 anni, quindi sicuramente ci rientra. Quello, ecco, che però accade è che saranno versati materialmente due assegni, l'uno da una parte e l'uno dall'altra. Esatto, esatto, però comunque ha il diritto alla pensione, lo matura in questo caso, perché ci fa la totalizzazione. Se invece rimanesse isolata, non, sì, raggiungerebbe il minimo per la pensione di vecchiaia. Allora, grazie. Torno invece sul fisco con il dottor Lucarini, perché tra gli SMS che ci state mandando, il caso di una ascoltatrice, credo, che ci segnala la posizione del figlio che sta facendo un tirocinio di 9 mesi a Tel Aviv come, penso, in ospedale, quindi immagino come infermiere o come medico, in attesa di fare la specializzazione lì. Questa retribuzione che lui sta ricevendo, che viene versata sul conto israeliano, quindi siamo proprio nei canoni di chi si trova a dover lavorare all'estero per un certo periodo, viene tassata in Italia? Chiedo l'ascoltatrice. Lucarini, cosa possiamo dirle? Anche qui bisogna sicuramente fare, come sempre, la verifica tra la residenza e la non residenza, considerando che la persona potrebbe essere considerato come non residente in Italia, perché magari svolge iscritto all'AIRE e è fondamentalmente tutto l'anno fuori dall'Italia, magari non è sposato, è ancora giovane e quindi non ha particolari legami con l'Italia. Se così dovesse essere, a questo punto l'unica tassazione come non residente è solamente quella estera e non quella italiana. Ecco, questo è il presupposto. Quindi non deve, insomma, non deve preoccuparsi di... Sì, se è non residente, no. Io mi aggancio però con una curiosità. Allora, si fa spesso confusione, per quello le chiedevo forse di fare un punto su questo. Si fa spesso confusione sul fatto di avere o non avere dei conti all'estero. Allora, in linea di massima, ma mi corregga Lucarini, sorvegli attentamente quello che sto dicendo. In linea di massima, non è vietato aprire un conto corrente all'estero, fare degli investimenti direttamente all'estero. Cioè, io potrei questa mattina uscire da qua, recarmi a Parigi, magari, perché no, e aprire lì un conto corrente. Questo non è assolutamente vietato, specialmente nell'ambito dell'Unione Europea. Quello che non bisogna dimenticarsi di fare è poi dire al fisco se abbiamo queste posizioni all'estero. Corretto, Mauro, hai toccato il punto, nel senso che assolutamente si possono aprire dei conti correnti all'estero secondo quella che è la normativa estera di riferimento e ovviamente ci sono degli adempimenti in Italia nell'ipotesi in cui uno rimanga residente fiscale in Italia. Quindi nell'ipotesi in cui uno rimanga residente in Italia ma abbia dei conti correnti all'estero, se è un conto corrente classico di deposito, sicuramente lo deve riportare in dichiarazione dei redditi italiana nel quadro RW, sì, e in più se è un conto di deposito deve anche pagare un'IVAFE, che è imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, che è pari a 34,20 euro. Quindi sì, è una cifra. È un'imposta fissa questa che si paga fissa per avere un conto di deposito all'estero. Quindi, certo, se uno ha già degli investimenti, per così dire, ha fatto degli investimenti, perché può capitare che se uno sta per un po' di tempo in un paese straniero, magari poi opera anche degli investimenti, mette da parte del denaro e lo impiega in qualche modo. Ecco, allora, se è un conto di deposito 34,20, sì? Se dovesse essere invece delle azioni, delle obbligazioni che uno può avere all'estero, allora a quel punto sempre va inserita in dichiarazione dei redditi tali valori nel quadro RW doppio, e in più c'è sempre l'IVAFE, ma è un IVAFE che non è più ad ammontare fisso di 34,20 euro, ma è uno 0,2% sul valore finale che va inserito in dichiarazione. Quindi a questo punto è in percentuale 0,2%. Un 2 per 1000 di fatto. Sì. Questo sempre se non si è iscritti AIRE, cioè Anagrafe Italiana Residenti All'Estero, questa situazione di dichiarazione e di applicazione dell'IVAFE, mentre se uno è AIRE praticamente è come se fosse all'estero in via permanente anche per il fisco. Mauro, colgo l'occasione per sottolineare il fatto che, ricordiamoci che sì, l'AIRE è sicuramente un elemento estremamente importante, una presunzione assoluta se uno non dovesse essere iscritto all'AIRE quello di essere residente in Italia, ma ricordiamoci che per essere considerato come non residente, oltre all'iscrizione all'AIRE, non ci devono essere in Italia dei legami e centri, come dire, affettivi oppure una dimora abituale, certo, che sono le condizioni. Perché naturalmente il fisco, come dire, non basta dire di essere iscritti all'AIRE, ma se poi uno mantiene, che so, i figli, il coniuge qui in Italia, e queste persone lavorano, vanno a scuola in Italia, eccetera, il fisco può presumere che forse la nostra residenza all'estero sia un pochino di comodo. Ma ci torneremo, ci sono anche degli ascoltatori in attesa, chiedo loro un attimo di pazienza perché, come sempre, ai 45 è il momento del traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Due di denari. Today you're working for the man. Devo dire che questa mattina sia Giulia Lauricella che Marco Lombardo sono andati un po' sul vintage con la selezione dei brani. Va bene, non me la prendo, ma invece do spazio agli ascoltatori che ci hanno telefonato. Duccia da Milano, buongiorno, ci dica. Buongiorno, allora, giovane figlio, 26enne, laureato in Inghilterra, già assunto. Sì. Quindi stipendiato in Inghilterra, aperto un piccolo conto con la quale naturalmente vive con lo stipendio. La problematica nasce perché mio figlio è contemporaneamente amministratore di una nostra piccola società in Italia. La nostra intenzione sarebbe quello di non iscriverlo all'AIRE, quindi dichiarazione dei redditi in Italia sommando i due redditi. Chiediamolo subito al dottor Lucarini. Lucarini, cosa possiamo consigliare a Duccia? Allora, io consiglierei sicuramente l'iscrizione all'AIRE e avendo chiaro che ovviamente lui non ha altri legami affettivi, quindi proverei a iscriverlo all'AIRE, considerarlo come non residente fiscale in Italia e a quel punto, come dicevo in premessa, sarà esentato su tutti i redditi inglesi e invece sarà soggetto a tassazione in Italia sul reddito semplicemente da amministratore, e quindi sarà una dichiarazione che sarà legata soltanto a quell'attività di amministratore. Perché sennò capisce che si complica il tutto, perché se non lo si iscrive all'AIRE, a quel punto in Italia dobbiamo andare a riportare anche i redditi di lavoro dipendente inglesi, in Inghilterra lo assoggetteranno sicuramente a tassazione sui redditi di lavoro inglesi e quindi qui sarebbero costretti a richiedere un credito d'imposta per imposte pagate all'estero, quindi si va a complicare molto, mio avviso. Certo, perché ovviamente la regola è anche questa, per cui se io ho pagato già le imposte in un paese sullo stesso reddito non possono essere duplicate le imposte, si chiede, si ha diritto appunto a chiedere un credito d'imposta. C'è un ascoltatore, ci scrive un sms: il prossimo anno vado a lavorare in Irlanda come cuoco dove pagherò le tasse, ma qui m'azzarderei, Lucarini, in Irlanda presumibilmente, se lo stipendiano, sì, in Irlanda, e lui si sposta proprio, cioè si iscriverà all'AIRE e diventerà un residente all'estero fiscalmente parlando. Corretto. Quindi questo è, diciamo, c'è un altro ascoltatore che ci segnala come il figlio, e qui invece richiamiamo l'esperto di previdenza Massimo Braghin, ci segnala che il figlio sta ad Harvard, fa il ricercatore, quindi già ci congratuliamo innanzitutto con questo ragazzo, iscritto AIRE, percepisce uno stipendio dall'università, ma si chiede, ma se lui poi tornasse a lavorare in Italia, magari sfruttando le norme di rientro dei cervelli, mi viene da pensare, questo periodo di stipendio da Harvard gli varrà ai fini dell'età pensionabile? Che possiamo dire, Braghin? Ma con gli Stati Uniti sicuramente ci sono le convenzioni bilaterali, quindi potrebbe essere, certo che dipende un po' dal periodo, da quanto rimane dall'altra parte, per il discorso proprio delle convenzioni bilaterali che stabiliscono i periodi minimi per fare poi la totalizzazione contributiva che dicevamo prima. Sì, e quindi... Era un periodo universitario alla fine. Certo, beh, lui adesso fa il ricercatore, quindi mi immagino che sia un'attività proprio... Può essere che sia anche un tirocinio, una sorta di tirocinio che non abbia neanche... un inquadramento... un pagamento previdenziale poi questo, Certo, perché potrebbe darsi che la sua situazione lavorativa non sia ancora tale da essere realmente inquadrato come un lavoratore dipendente, ma magari come succede una borsa di studio potrebbe essere... Sì, potrebbe essere anche quello. Ma scusa, ma volevo fare un inciso prima sulle, sai, quando abbiamo parlato dei conti detenuti all'estero, sì, che il dottor Lucarini ha spiegato benissimo tutta la procedura così. E c'è anche un piccolo passaggio a tenere presente, perché di solito ci si dimentica, quando poi dobbiamo fare delle prestazioni, quindi il lavoratore che è all'estero deve fare delle prestazioni assistenziali per i suoi familiari che sono in Italia, c'è il modello ISEE da compilare e di solito ci si dimentica di indicare anche i conti detenuti all'estero. Ah, certo. Quindi oltre a un adempimento, diciamo, dichiarativo che c'è del quadro RW, come si diceva in modo corretto prima, l'aggancio poi è anche sul modello ISEE, perché non indicarli sicuramente poi l'Agenzia delle Entrate potrebbe avere anche l'aggancio per rifiutare la prestazione, ad esempio, che qualcosa non l'ho dichiarato, insomma, ecco, sul modello. Certo. Magari dichiaro solo quello in Italia e non dichiaro i conti detenuti, conti correnti detenuti all'estero, magari sono anche conti correnti di piccole dimensioni, però anche quelli vanno dichiarati. Per quanto riguarda invece prima il discorso dell'Inghilterra che poneva il quesito l'ascoltatrice, sì, ricordiamoci che in Gran Bretagna c'è il problema Brexit. Ah, certo. E finché non ci sarà l'uscita definitiva si continuerà ad applicare la normativa comunitaria, quella preesistente, quindi anche per quanto riguarda quella previdenziale. Dopodiché, con l'uscita della Gran Bretagna, tanto hanno 2 anni mi pare per... Sì, non mi sembra che ci sia tutta questa fretta indiavolata da parte loro. Esatto, non c'è. Quindi poniamo che, anzi non poniamo, è ancora in ambito Unione Europea. Sì, quindi Europea, valgono le regole dell'Unione Europea, e fino a che appunto la Brexit non sarà completata. Tra l'altro appunto i negoziati non stanno andando velocissimi, perché da parte proprio della stessa Gran Bretagna c'è un certo imbarazzo nel risolvere tutte le pendenze. Abbiamo diversi ascoltatori in attesa, allora proviamo velocemente. Tina da Genova, buongiorno Tina, ci dica. Buongiorno. Rapidissima. Allora sì, dunque mio marito ha insegnato ad un'università canadese per 40 giorni, sì, e quando ha ricevuto lo stipendio si è visto detrarre $1,000 per la pensione. In Canada però. In Canada, ecco, sì. Ma lei pensa che questi soldi restino al governo canadese? Guardi, o ci può essere qualche cosa? Non penso nulla e lo chiedo a Braghin. È stata una prestazione occasionale questa che ha fatto. Sì, immagino che sia stato visiting professor o qualcosa del genere. Sì, probabilmente può essere anche una trattenuta che non solo previdenziale ma anche assistenziale. Sì. Perché là comunque usano queste cose, ecco, da un punto di vista assistenziale. Certo che se abbiamo le convenzioni vengono applicate quelle e le regole sono quelle che conosciamo. Se non c'è la convenzione con lo Stato... è chiaro che c'è la possibilità di chiedere il riscatto del lavoro svolto all'estero secondo quanto previsto dall'articolo 51,2 della legge 153 del 69, quindi ho sempre la possibilità di richiedere anche la restituzione di quanto versato nel paese non convenzionato. Allora, la contribuzione va fatta nel paese non convenzionato. L'ultima domanda la faccio proprio a lei, Braghin, unendo due ascoltatori ai quali chiedo di avere pazienza, li abbiamo tenuti in linea. Sono in realtà due casi simili, nel senso, l'uno Giovanni da Cremona, autonomo russo, che ha versato però per 25 anni contributi in Italia, chiede se può avere la pensione in Italia. E l'altro invece Hassan, che ci chiama da Bologna, quando andrà in pensione presumibilmente tornerà in Marocco o andrà in Marocco, questa è la sua indicazione, ma si chiede se la sua pensione verrà tassata in Italia. Cosa possiamo dire in 30 secondi? In 30 secondi dobbiamo dire che dobbiamo guardare le convenzioni bilaterali. Io credo che comunque non siano cittadini italiani né uno né l'altro, perché uno mi ha detto che è russo e l'altro invece è forse il russo, quindi, essendo stato qua per 25 anni, potrebbe esserlo diventato. Sì, forse ha acquisito anche la cittadinanza e quindi con quello potrebbe avere diritto anche alla pensione con 25 anni di contribuzione versata, se è cittadino italiano logicamente rientra come gli altri. Per quanto riguarda il Marocco, qua c'è la convenzione bilaterale, bisogna capire un attimo, è difficile anche fare delle valutazioni così, bisognerebbe sempre consultare gli stati conti contributivi per vedere quanto effettivamente è stata com'è la maturazione della contribuzione da una parte e dall'altra. Grazie a Massimo Bargrin, grazie a Paolo Lucarini e a tutti voi che ci avete ascoltato. Due di Denari torna domattina.